in primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani. Come avete sentito nei GR, ma in realtà già nei telegiornali di ieri, la notizia è quella di questa dell'approvazione di tutto quello che riguarda il lavoro e anche del tutte le novità fiscali. Quindi oggi ci sono, oltre alla notizia, anche tutti i commenti su queste importanti riforme per il nostro paese. Allora il Corriere della Sera, per esempio, titola "Giovani così cambia il lavoro" e poi un accenno alle dichiarazioni fatte dal ministro dell'economia Padoan, che ha detto che grazie a queste riforme strutturali, cioè il lavoro, il fisco e le altre che verranno, il PIL del nostro paese crescerà del 3,6% nel 2020. Siccome, sapete, cade in questi giorni anche il primo compleanno del governo Renzi, c'è un sondaggio pubblicato dal Corriere della Sera di Nando Pagnoncelli: un anno al governo, risale la fiducia su Renzi. La fotonotizia del Corriere invece è dedicata alla scomparsa di Luca Ronconi, che è morto ieri a Milano per le conseguenze di una malattia di cui soffriva da tempo, un tumore. È morto ieri per una polmonite, aveva 81 anni. Addio a Luca Ronconi, ha rivoluzionato il teatro, l'articolo principale di Franco Cordelli. Parlavamo di economia, di importanti riforme economiche, allora vediamo subito la prima pagina del Sole 24 Ore. Il titolo principale: contratti a termine oltre il 20%, il riferimento è a una delle tante misure comprese nel Jobs Act, sanzioni soft per le imprese e poi la spiegazione di che cosa succede ai licenziamenti collettivi. Poi naturalmente tutto quello che riguarda la Grecia, perché sapete che è stato raggiunto sostanzialmente questo accordo tra Grecia e Troika, cioè Banca Centrale Europea, Commissione Europea e Fondo Monetario Internazionale. E allora gli articoli che poi trovate a pagina 5: Grecia, le carte di Tsipras, il premier greco naturalmente cerca di dire che ha vinto la sua battaglia, anche l'Unione Europea e Angela Merkel cercano di dire che hanno vinto la loro di battaglia, restando abbastanza fermi sulle posizioni. Il commento è di Adriana Cerretelli: doppio pesismo ed eurodemocrazia. Ma vi segnalo anche il commento di Luca Ricolfi, Euro e caso Grecia, intitolato "Gli squilibri mai corretti e il silenzio dell'Europa". Vi leggo la prima parte, poi lo trovate in prima pagina e poi a pagina 20. Tre cose sembrano chiare per ora. La prima è che la Grecia non abbandonerà l'euro. La seconda è che l'Europa le presterà altri soldi. La terza è che i politici greci ed europei faranno di tutto per nascondere la verità alle rispettive opinioni pubbliche. Dalla prima pagina del Sole 24 Ore anche il consueto intervento di Bruno Forte, arcivescovo di Chieti Vasto, che alla domenica interviene appunto sul Sole 24 Ore, e oggi si dedica alla lezione di Gandhi e la verità senza violenza. E poi la lettera al risparmiatore, anche questa una costante del Sole 24 Ore della domenica, curata da Vittorio Carlini, che come sapete si concentra su una società quotata. Oggi è la IMA, che è una società attiva nel confezionamento alimentare. La priorità è l'integrazione delle società tedesche acquisite. All'interno, a pagina 18, trovate appunto tutto l'approfondimento curato da Vittorio Carlini. La Repubblica unisce nel titolo principale i due argomenti, quindi lavoro, battaglia sul Jobs Act e poi Atene, ora stop all'austerity. Anche in questo caso la fotonotizia è dedicata alla morte di Luca Ronconi, l'articolo principale di Stefano Bartezzaghi. La Stampa ha invece una fotonotizia diversa proprio al centro della prima pagina, che è quella della valanga che ieri ha travolto tre sci alpinisti italiani sul Gran San Bernardo. Le condizioni erano meteo, erano pessime, e quindi i soccorritori non sono riusciti a salvare questi tre sci alpinisti, e tra l'altro altri due che erano nella stessa cordata sono in pericolo di vita. Sempre in prima pagina c'è naturalmente il riferimento alle riforme, quindi in particolare alle dichiarazioni di Padoan, che ha spiegato appunto all'Unione Europea quanto valgono secondo le stime. Vi segnalo, la Stampa è l'unica che richiama in prima pagina quello che succederà stasera negli Stati Uniti, a Los Angeles, che qui faremo un po' fatica a seguire perché c'è un fuso orario di 9 ore, ed è la consegna degli Oscar. La sfida a due per la notte degli Oscar, come ruolo per miglior attore, si sfidano, secondo la Stampa, Michael Keaton, che è il protagonista di Birdman, il film di Alejandro Iñárritu, e Ed Redmayne, che è il protagonista invece del film La teoria del tutto, che è la biografia di Stephen Hawking. La prima pagina dell'Avvenire naturalmente è dedicata a quello che ha dichiarato ieri il Papa, che è tornato a rivolgersi ai mafiosi dicendo loro: convertitevi voi che vivete nel male. Come pubblica è stata la scelta di servire la malvagità, pubblica sia la volontà di servire il bene. Il nostro tempo ha bisogno di speranza. E quindi giustamente sull'Avvenire grandissimo spazio appunto alle dichiarazioni di ieri del Papa. Una interessante intervista richiamata in prima pagina, che poi trovate a pagina 7, al ministro del lavoro Poletti, che spiega: voglio e sto lavorando a un piano contro la povertà. Scusate, a un piano contro la povertà. Anche sulle pensioni, sul capitolo delle pensioni, sulle quali negli anni scorsi abbiamo avuto molte riforme, però ancora di riforme c'è bisogno, evidentemente, secondo Poletti. Adesso bisogna cambiare, dice. Per quanto riguarda le fasce deboli, sempre il ministro del lavoro spiega che una volta archiviato il Jobs Act, nel senso che finalmente sono stati approvati alcuni dei decreti attuativi, adesso bisogna pensare a dei bonus per le fasce deboli. C'è un riferimento anche, lo trovate naturalmente anche su molti altri giornali, su quelle che vengono definite le scintille tra il presidente della Camera Laura Boldrini e Matteo Renzi, il premier. Laura Boldrini ha accusato Matteo Renzi di agire da uomo solo al comando, appunto, nell'approvazione di alcuni decreti. Il Messaggero è invece alla prima pagina dedicata a quello che viene definito il decreto per difendere Roma, che naturalmente è una delle conseguenze delle orribili devastazioni di giovedì a Roma da parte degli hooligans del Feyenoord, della squadra del Rotterdam, che incontrava poi la Roma allo stadio olimpico. C'è stato un incontro Alfano-Marino, cioè tra il ministro dell'interno e il sindaco di Roma Ignazio Marino. Ci sarà una stretta data dal Viminale, cioè il ministro dell'interno, dopo queste violenze dell'ultra, ed sono in arrivo anche norme per il decoro. Ci saranno meno autorizzazioni a manifestare nel centro di Roma, più controlli e telecamere e più rigore contro gli abusivi. E poi una fotonotizia curiosa, perché come forse avete sentito in questi giorni si stanno girando a Roma le prime scene del nuovo film di James Bond, che oltre al protagonista Daniel Craig vede protagonista come Bond Girl anche Monica Bellucci. Ebbene, pare che le numerose buche, che sono uno dei guai del centro di Roma, ma del resto ce ne sono tante anche a Milano, cioè il dissesto della pavimentazione urbana, fermano anche Bond. L'Aston va a passo di lumaca, l'Aston Martin naturalmente, che è la macchina prescelta da James Bond. La prima pagina del Fatto Quotidiano, che è molto critico verso il Jobs Act, Renzi la truffa dei precari, e poi c'è il richiamo a un'intervista a Maurizio Landini, leader della FIOM, che dice ora faccio politica. Dopo mesi e mesi, forse addirittura anni passati a dire che no, non avrebbe fatto politica perché sarebbe sempre rimasto un sindacalista, adesso appunto Landini dice basta, sfido Matteo, e sceglie il Fatto Quotidiano per fare questo annuncio. Vi segnalo un gustoso intervento di Aldo Busi, che se la prende con Roberto Saviano, che con la sua solita enfasi due giorni fa ha candidato Elena Ferrante al premio Strega, e Aldo Busi scrive: Saviano Ferrante, roba da diabete. Ieri sabato 21 febbraio verso le 11 ricevo la seguente mail da un letterato che si fa vivo a ogni morte di duetto di Papa. Caro Busi, ma lei non pare ridicolo il pezzo di Roberto Saviano in cui auspica il premio Strega per la Ferrante? Cordialità, diamine. E lo trovate poi a pagina 19. In primo piano. Ancora buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, ben ritrovati. Eravamo sulle prime pagine dei quotidiani, siamo a quella del Giornale, che sceglie di titolare su uno studio appena presentato dal Centro Studi Impresa Lavoro, e che spiega come l'Italia sarebbe addirittura la maglia nera d'Europa quanto a tasse, balzelli e imposizioni fiscali, e quindi il titolo: Italia inferno fiscale. Poi vi segnalo due articoli, due sobri attacchi al fondamentalismo islamico con toni da far paura mentre li si legge. Uno è di Piero Stellino: ISIS, la nostra inerzia, e testuale l'ottusità di Obama, come fermare i tagliagole, e l'altro di Francesco Alberoni, il primo totalitarismo barbarico. Sempre appunto a proposito di toni così ragionevoli, come se poi in entrambi gli articoli si ripercorrono tutte i crimini orrendi che l'ISIS ha commesso, però diciamo per l'ennesima volta, ribadendo per l'ennesima volta appunto questo terrore che mette l'ISIS. E poi vi segnalo un articolo molto gustoso, perché è la vicenda che anche dal punto di vista giornalistico così mi diverte, che è quella, è l'errore in cui è incorso una giornalista di Repubblica 2 giorni fa, Simonetta Fiori, una giornalista di lunghissimo corso che si occupa di cultura da tantissimi anni. Ha intervistato Ernesto Franco credendo, ha intervistato Ernesto Ferrero, che è il direttore del Salone del Libro, credendo in realtà di parlare con Ernesto Franco, boss dell'Einaudi. In questa intervista, quasi 2 pagine su Repubblica, Ernesto Franco, ripeto, numero uno dell'Einaudi, che fa parte della galassia Mondadori, stroncava la possibile acquisizione da parte di Mondadori di RCS Libri, ma in realtà non era Ernesto Franco a parlare, bensì Ernesto Ferrero, che tra l'altro è stato a sua volta direttore editoriale dell'Einaudi. E quindi insomma un bel pasticcio, di cui poi Simonetta Fiori si è scusata sulla Repubblica di ieri, però insomma intanto la frittata sicuramente è fatta, e il giornale, se volete, è abbastanza gioco facile a parlarne, però ripeto, è sicuramente una vicenda, se vogliamo, anche divertente. Tutti sbagliamo, noi giornalisti per primi naturalmente, questo è uno sbaglio abbastanza grosso, però che naturalmente Simonetta Fiori ha ammesso. Vi segnalo da Libero invece un titolo ancora diverso. Libero sceglie di pubblicare 8 pagine di documenti del Califfato, dove si spiegano appunto questi deliri di onnipotenza fondamentalista dello Stato Islamico, appunto dell'IS, che poi sapete che in realtà è un autoproclamato Stato, non esiste come Stato naturalmente l'IS. 8 pagine di documenti, così vogliono spararci dalla Libia e alzare la loro bandiera in Europa. E poi vi segnalo un altro tanto gustoso articolo di Franco Bechis, che è il vice direttore di Libero, quello che viene definito il sacco di Roma, cioè gli terribili incidenti di giovedì con tutti i danni che sono stati causati a Piazza di Spagna e alla fontana, sapete, la barcaccia del Bellini, appunto sempre nel centro di Roma. Colpa di Marino, è stato lui a obbligare i tifosi olandesi. E Franco Bechis se la prende un po' con Ignazio Marino, ma non ha poi tutti i torti, perché Ignazio Marino per l'ennesima volta ha detto che non è colpa sua quello che è successo a Roma, facendo quello che forse sa fare meglio, cioè l'arte dello scaricabarile, scrive Franco Bechis. Il sindaco di Roma, Ignazio Marino, è uno dei più grandi professionisti nell'arte dello scaricabarile. Qualsiasi cosa capiti di poco commendevole, capitasse pure nella cucina di casa sua, è sempre colpa di qualcun altro. Lui non c'era, e se c'era non vedeva, e se vedeva comunque non sentiva. È accaduto così quando la sua mano destra prendeva contributi dalle coop di Mafia Capitale, la sinistra si alzava indice teso a condannare quel malaffare. Questo naturalmente è il riferimento all'inchiesta Mafia Capitale, ma, scrive Bechis, è riaccaduto nei tristi giorni del sacco olandese di Piazza di Spagna, al salotto di quella Roma che Marino dovrebbe presidiare. Il sindaco ha cominciato ad accusare chiunque altro fosse in città quel giorno, c'era anche lui ed è una rarità, tuonando contro prefetto, questore e anche il ministro dell'interno Angelino Alfano. Nel suo crescendo di accuse lanciate a raffica, Marino ha raggiunto toni grotteschi, da humor noir, quando ha sostenuto in conferenza stampa: è chiaro che questa città ha un problema di sicurezza grande come una casa e Alfano deve decidere cosa fare. La capitale d'Italia deve avere la stessa sicurezza di Parigi, Londra e Amsterdam, chiuse virgolette. E scrive Franco Bechis: ecco, chiedere che Roma abbia la stessa sicurezza di Parigi a poche settimane dalla tragedia di Charlie Hebdo e del supermercato Kosher è così fuori luogo che poteva venire in mente solo a chi, sparando nel mucchio, cercava di allontanare da sé qualsiasi tipo di responsabilità, che nel caso di Marino c'è e non è lieve, proprio nella devastazione olandese nel centro di Roma. E poi prosegue Franco Bechis. La prima pagina del Manifesto: troica al lavoro. In questo caso la troica non è quella che siamo abituati a a considerare tale, cioè come ho detto all'inizio citando l'accordo con la Grecia, quel triumvirato formato da Banca Centrale Europea, Commissione Europea e Fondo Monetario Internazionale. No, la troica a cui allude il manifesto con una foto è quella di Matteo Renzi, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Gaetano Del Rio e il ministro del Lavoro Poletti. Alfano rivendica con orgoglio il suo Jobs Act, nel PD è scontro duro ma fuori tempo massimo. La minoranza fa autocoscienza sull'articolo 18, umiliato anche il Parlamento. E la Presidente Boldrini, il governo ascolti le Camere, non c'è un uomo solo al comando. Quindi appunto tutte le divisioni all'interno del PD. Concludiamo con la Gazzetta dello Sport che titola su Pippo Inzaghi, vietato sbagliare, occhio Pippo, Silvio ti guarda, contro il Cesena che ha fermato la Juventus, il tecnico si gioca molto, in palio c'è anche la fiducia di Berlusconi. E poi naturalmente un accenno a quello che avete sentito anche nei GR, solito disastro, ma Rassi fa acqua, derby rinviato, il riferimento è alla partita tra Sampdoria e Genova che appunto ieri è stata, a un certo punto era iniziata ma è stata poi subito interrotta e non è mai ripresa. Si giocherà martedì perché appunto il campo non ha retto alla grande quantità di pioggia che si è riversata su Genova. Veniamo alle pagine interne. Dal Corriere della Sera una pagina, la 9, sull'accordo tra Italia e Svizzera che porrà fine al segreto bancario. L'annuncio è stato fatto dal ministro dell'economia Padoan. Domani ci sarà la firma con la responsabile svizzera dell'economia Dwidman Schlumpf. L'agenzia delle entrate nostra potrà chiedere informazioni su tutti i contribuenti e sparisce la blacklist. Poi vi segnalo un articolo di Gian Antonio Stella che ci spiega come nel paese più a rischio di terremoti, cioè il nostro, sono state dimezzate le università di teologia. C'era stato in realtà un aumento degli studenti nelle discipline geologiche nelle università italiane dal 2008 al 2012, ma negli ultimi anni i professori di queste materie sono diminuite. C'è anche uno schema che ci ricorda come il nostro sia veramente un paese ad altissimo rischio sismico. Sono, pensate, 8.047 comuni italiani e su questi 6.663 sono a rischio idrogeologico. Torniamo un attimo alla questione greca, trovate a pagina 5 del Sole 24 Ore molti articoli e anche uno schema riassuntivo su chi sono i creditori di Atene, creditori pubblici e creditori privati e a che punto sia l'economia greca in questo momento con gli indicatori sul PIL, l'export e la disoccupazione. L'articolo principale è di Vittorio Darold, le carte di Tsipras, salari minimi più alti e nuova patrimoniale. Dal dorso norme e tributi un approfondimento sulla liberalizzazione dei notai, perché nel DDL concorrenza che è stato varato dal Consiglio dei Ministri c'è naturalmente anche una mini riforma per quanto riguarda gli avvocati e sul Sole 24 Ore trovate un'intervista a Maurizio Del Rico che è il presidente del notariato, cioè dei notai italiani, che viene di Maria Carla De Cesari, il titolo è "A rischio la certezza dei diritti". Il presidente appunto dei notai, chiamiamo il presidente dei notai italiani, e ha dei dubbi su questa riforma, su questa liberalizzazione della professione. A pagina 12 e 13 di Repubblica trovate, come insomma forse era lecito aspettarsi, Repubblica è il giornale che dà più spazio al processo, al cosiddetto processo Rubiter. I PM setacciano video chat delle ragazze perché saltano fuori nuovi documenti su quanti soldi sarebbero andati alle ragazze del Bunga Bunga, le cosiddette olgettine, per esempio alla sola Nicole Minetti, ex consigliere regionale della Lombardia, ora condannata nel processo dove è stato condannato anche Emilio Fede, solo alla Minetti sarebbe andato mezzo milione. I PM continuano a indagare e pare che Silvio Berlusconi sia preoccupato per i possibili nuovi sviluppi di questa inchiesta. Messaggero vi segnalo, oltre agli approfondimenti appunto sul decreto sicurezza per Roma, anche un'intervista a Corrado Passera, che sapete è il fondatore di Italia Unica, continua a sostenere che il suo partito è la casa per tutti quegli italiani che non hanno più una casa politica, sostanzialmente di centrodestra. Secondo Corrado Passera il centrodestra in Italia è maggioritario, Italia Unica punta a guidarlo, non resterebbe diciamo in realtà che andare a elezioni per verificare questa cosa. In primo piano. Ancora buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli. Eravamo sulle pagine interne dei giornali. Prima di passare ai supplementi culturali della domenica, vi segnalo a pagina 12 e 13 del giornale una divertente accoppiata di notizie, di articoli. Il primo, lo trovate anche su altri giornali, è quello che riguarda i dati resi noti ieri dal Censis. Secondo l'istituto di ricerca, negli ultimi 10 anni sono raddoppiati i furti in casa, e se facciamo una statistica ce ne sarebbe in Italia addirittura uno ogni 2 minuti, un'infrazione. E allora Stefano Lorenzetto ha intervistato Lorenzo Danieli. Sapete che Stefano Lorenzetto ha questa rubrica sul giornale della domenica che si chiama Tipi Italiani, dove intervista appunto tipi italiani, magari persone non molto famose ma che hanno delle vite molto interessanti e curiose. In questo caso Lorenzo Danieli è una persona che ha avuto 28 furti in casa e racconta a Stefano Lorenzetto: così ho vinto la mia guerra. Fili invisibili, inferriate, allarmi, telecamere e revolver. Spesso ho pensato, sparo e nascondo la salma, ma non c'è posto al mondo dove puoi buttare un cristiano. Insomma, sicuramente alcune affermazioni anche molto forti, però dettate anche dall'esasperazione. Stefano Danieli, che appunto abita in provincia di Treviso, ha avuto 28 volte i ladri in casa. Ma veniamo alla domenica del Sole 24 Ore. Cominciamo come sempre dal breviario di Gianfranco Ravasi, che oggi si intitola Lottare. E la citazione è di Bertolt Brecht. Ci sono uomini che lottano un giorno e sono bravi. Ci sono uomini che lottano un anno e sono più bravi. Ci sono uomini che lottano molti anni e sono ancora più bravi. Ci sono però quelli che lottano tutta la vita. Di essi non si può fare a meno. È Brecht, scrive Ravasi, a costruire questo crescendo che esalta la coerenza di tutta una vita. Per fortuna sono molti coloro che, senza squilli di tromba e clangori di applausi, lottano per un'intera esistenza all'interno di una famiglia, in un lavoro non esaltante ma necessario per sopravvivere, in una società che li ignora. Vorremmo però mettere l'accento su quel verbo, lottare, purtroppo solitamente usato in senso marziale o conflittuale. La vera lotta, in realtà, è quella quotidiana che tanti devono affrontare per le modeste difficoltà economiche, personali e sociali. Frédéric Ozanam, un grande apostolo francese della carità, confessava: «Sono felice di essere nato in un tempo in cui c'è molto da fare e da lottare». E poi, sempre a proposito di rubriche, dalla prima pagina della domenica, il memorandum di Roberto Napoletano, nostro direttore, nostro di Radio 24 e Sole 24 Ore, dedicato a Michele Ferrero, l'industriale, il fondatore della Ferrero e naturalmente inventore della Nutella, che è scomparso all'inizio di questa settimana. E ci sono stati i funerali mercoledì ad Alba. Il direttore napoletano ha partecipato e quindi racconta un po' le sue sensazioni e poi ricorda anche le conversazioni avute con l'intellettuale, anche con il figlio Giovanni, che non c'è più, e adesso invece Pietro che dovrà invece raccogliere l'eredità molto sicuramente difficile del padre. L'articolo principale però della prima pagina è dedicato a un nuovo libro su Erasmo da Rotterdam, e ce lo racconta Massimo Firbo. Il libro è di Carlo Ossola, che ripercorre tutta la vita e le opere di questo, quello che viene definito il grande uomo del Rinascimento, maestro di saggezza e di equilibrio nel secolo dei conflitti religiosi. E abbiamo parlato anche di scuola nei giorni scorsi. C'è a pagina 29 un articolo di Armando Massarenti, che è il resoconto di un colloquio con il ministro dell'istruzione Stefania Giannini. Il titolo: coltivare la scuola responsabile, puntare sulle conoscenze più che sulle competenze, sbloccare gli eccessi burocratici, realizzare l'autonomia educativa e introdurre il merito. E c'è una citazione di Don Milani che diceva: la scuola rende uguali perché restituisce a tutti la parola. E oggi ha spiegato Stefania Giannini e Armando Massarenti, che, lo sapete, è il responsabile del supplemento domenicale, e più tardi lo sentirete anche insieme ad Alessio Maurizio in Si può fare. Oggi la scuola deve fornire le capacità logico-argomentative per formare i cittadini. La lettura del Corriere della Sera, il supplemento domenicale del Corriere della Sera, sapete, la copertina è sempre affidata a un artista, oggi è un dipinto di Vito Tongiani. E poi all'interno vi segnalo un articolo di Beppe Severgnini, che trae spunto un po' dall'attualità ma anche da alcuni testi usciti di recente e anche da quello che succede sui social network. Il titolo è La passione per i complotti. tutti. Dai romanzi alla rete, i dietrologi vivono una nuova fioritura. Si è capovolto l'onere della prova, non più a carico di chi sostiene la cospirazione, ma di chi deve smentirla. In Italia, poi, la mancanza di trasparenza esaspera la frustrazione. Sicuramente noi in Italia siamo abbastanza esperti in dietrologia. Per quanto riguarda la pagina di Visual Data, che la lettura sempre ha, oggi è dedicata ai parlamenti, definito sostantivo un po' più femminile. Parlamento naturalmente è un sostantivo che è maschile, però la presenza delle donne aumenta in tutto il mondo, come dimostra questo schema, e le deputate sono salite dal 13 al 22% in 25 anni. Con la presenza delle donne crescono i fondi per le categorie deboli, questo emerge dalle statistiche. E poi un lunghissimo articolo di Paolo Giordano, che sapete è un matematico prestato un po' alla letteratura, che ci riracconta Albert Einstein. Il titolo è: l'universo smise di essere un noioso parallelepipedo. Il 25 novembre di un secolo fa Albert Einstein presentò la teoria della relatività generale. Il cielo non fu più quello che fino ad allora era stato pensato, ma si trasformò in una struttura viva, mobile ed elastica, piena di fosse, cunicoli e pendii. Sicuramente un racconto affascinante di un argomento difficilissimo, che è quello della relatività. La prima pagina della Domenica di Repubblica è dedicata a Vasco Rossi. C'è una foto di un Vasco Rossi giovanissimo. Il titolo è: Radio Vasco. Se 40 anni fa nascevano le prime radio libere, fu anche grazie a un ragazzo di Zocca, in provincia di Bologna, naturalmente, Vasco Rossi, e ai suoi amici. E ora Vasco Rossi, proprio lui, con un articolo, racconta a Repubblica quell'avventura bella e spericolata. Poi un'intervista di Arianna Finos a Joaquin Phoenix, uno degli attori sicuramente più interessanti della sua generazione, che si definisce, dice di non aver mai trovato un equilibrio. Non ho la minima idea di come si faccia a mantenere l'equilibrio. Nel cinema, per esempio, il set è un luogo protetto, oliato e sicuro. Troppo è fantastico quando ci entra dentro all'improvviso un po' di vita vera. Poi nella serie di Antonio Gnoli Straparlando, una lunghissima e bellissima intervista ad Alvar González Palacios: fu la grazia demoniaca di Longhi a stregarmi con la storia dell'arte, infatti uno dei più importanti storici dell'arte italiani, e qui ripercorre un po' tutta la sua carriera, la sua passione per l'arte e soprattutto per poi anche lo studio dell'arte e anche la critica. Alias, il supplemento del Manifesto, la copertina è dedicata a un nuovo libro su Paul Valéry, il poeta, la corposa siloge di opere scelte e curate da Maria Teresa Giaveri per i Meridiani, quindi un nuovo Meridiano, sapete quella collana di Mondadori che è particolarmente pregiata e in generale è monografica, quindi ci mostra uno scrittore di situazionistica modernità, ma al tempo stesso ancora sprofondato nell'humus del dandismo fin del siècle. L'ultima segnalazione che ho tempo di farvi è per Macro, il supplemento del Messaggero. Molto divertente la copertina, è dedicata a K, la razione del cuore. K sta per il pranzo del soldato. Ogni soldato ha una particolare tipo di dotazione che in generale deve fare a meno di cottura, ed ecco allora tutto un panorama di come è questa razione dei soldati in giro per il mondo: l'Italia, la Francia, l'Inghilterra, la Germania, la Norvegia e gli Stati Uniti. In Italia, per esempio, è l'unica razione con ravioli e tortellini al ragù, ma anche con pasta e fagioli, come dire che è un po' come per i pranzi sulle compagnie aeree, alla fine quelli italiani sono comunque i migliori. E l'ultimissima segnalazione, sempre da Macro del Messaggero, un approfondimento sulle graffittare donne. Graffiti, il segno delle donne. Il primo a lasciare la sua firma fu il celebre Bansky, ma ora il tunnel londinese Leek Street ospita il 7 e l'8 marzo il Femme Fierce, festival al femminile. Attese le star della bomboletta mondiale, a cominciare dalla romana Alice, che vedete anche fotografata appunto sul supplemento del Messaggero. Ringrazio Carmelo Lauricella in regia, auguro a tutti una buona domenica, come sempre vi consiglio di prendervi un po' più di tempo del solito per leggere i giornali, sono pieni di approfondimenti interessanti oggi.